alla finestra, mentre fuori tuonava in tempesta, sembrava aprire il mondo a metà. Dividerci i respiri fuori dalla realtà. Urlando, abbiamo sentito i nostri cuori arrossire, lontano giù per le strade tutto sembra appassire, come cenere sulle tue gambe scoperte, stretto